La festa di compleanno. Per tutta la settimana Laura non fece che pensare alla festa. Voleva andarci e insieme non voleva andarci. Una volta, tanto tempo prima, quando era ancora bambina, era stata la festa di Nellie Olson. Ma allora erano tutti piccoli, adesso era diverso. A scuola anche Aida e Mary Power erano tutte eccitate. Arthur aveva detto a Minnie che era una festa di compleanno. Il compleanno di Ben. Ma durante l'intervallo non poterono parlarne perché con loro c'era Nellie Olson che non era stata invitata. Non sarebbe potuta andare comunque perché non abitava in paese, ma loro non vollero essere scortesi. La sera della festa, alle 7, Laura era già pronta. Mancava ancora mezz'ora, però, prima che Mary Power passasse a prenderla per andare insieme fino alla stazione dove abitavano i Woodworth. Per distrarsi, cercò di leggere la poesia di Tennyson che preferiva. Vieni in giardino, Maud. Uscite la notte, nero pipistrello. Vieni in giardino, Maud. Solo, ti aspetto qui al cancello. Già profuma l'aria il caprifoglio, già odora il muschio della rosa. Ma non riusciva a stare ferma. Per l'ennesima volta si guardò allo specchio. Desiderava tanto essere alta e magra che quasi quasi sperava di vedere riflessa una figura diversa. Invece vide la solita ragazza, piccola e rotondetta, col suo abito della domenica di tessuto di cashmere azzurro. Per fortuna era un abito da adulta, che almeno scendeva a nascondere gli stivaletti abbottonati. La gonna, ampia, era raccolta dietro in larghe pieghe e non avrebbe potuto cadere meglio. Sopra, il corpino finiva a punta davanti e dietro, con una fila di bottoncini verdi sul davanti. Appena sopra l'orlo della gonna correva un largo nastro di tessuto scozzese, azzurro, verde e oro, e un bordino più sottile, con lo stesso motivo, delimitava il corpino e il bordo delle maniche lunghe e strette. Anche il colletto dritto era scozzese, con una balza di merletto all'interno. Mamma le aveva imprestato la sua spilla di madreperla per chiuderlo sotto il mento. No. Sul vestito non aveva proprio niente da dire, ma oh, come avrebbe voluto essere alta e flessuosa come Nellie Olson. Invece aveva i fianchi grossi come un giovane albero e le braccia erano ben tornite, sì, ma anche loro rotondette e piccole e robuste erano anche le mani. Tutt'altra cosa rispetto alle lunghe mani esili e languide di Nellie. Anche la faccia, che vedeva riflessa nello specchio, era tutta curve. Il mento disegnava una curva e così anche il labbro sopra la bocca, che era piccola e rossa. Il naso era quasi dritto, ma aveva quel non nulla di impertinente linea all'insù che gli impediva di essere un vero naso greco. Gli occhi poi le sembravano un po' troppo distanti e di un azzurro più chiaro di quelli di papà. Ora avevano uno sguardo ansioso e un po' spaventato e non brillavano per niente. Dritta sulla fronte correva la linea dei ricci. I capelli, quelli sì, li aveva belli, folti e lunghi, non biondi però, ma castani. Ora erano tutti pettinati indietro a formare una spessa treccia raccolta sulla nuca. Quel peso sulla testa le dava la gradevole sensazione di essere davvero adulta. Girò la testa per vedere la luce della lampada scivolare sulla massa dei capelli. Poi di colpo si rese conto che quelli erano i pensieri di una ragazza vanitosa. Allora andò alla finestra. Mary Power non si vedeva. Laura decise che era troppo spaventata per andare a quella festa. Laura, siediti e aspetta con pazienza. La rimproverò mamma con dolcezza. In quella però Laura vide Mary uscire di casa e si precipitò a mettersi cappotto e cappuccio. Fecero tutta Main Street, poi presero lungo la ferrovia. Camminavano in silenzio, scambiandosi appena qualche parola. Quando furono alla stazione, videro che le finestre al primo piano erano tutte illuminate. C'era una lampada accesa anche di sotto, nella stanza del telegrafo, dove il fratello maggiore di Ben, Jim, stava ancora lavorando. Faceva il telegrafista. Si sentiva dietro la porta il chiacchiericcio del telegrafo. «Credo che si entri dalla sala d'aspetto», disse Mary Power. «Bussiamo o entriamo direttamente?» «Non so», disse Laura. Stranamente si sentiva un po' rassicurata dal fatto che anche Mary Power non sapesse cosa fare, ma aveva lo stesso la gola secca e il cuore che batteva forte. La sala d'aspetto era un luogo pubblico, ma ora la porta era chiusa e quella era una festa. Mary Power ebbe un attimo di esitazione, poi bussò. Non aveva picchiato forte, ma il colpo le fece sobbalzare entrambe. Nessuno venne ad aprire. Entriamo, disse Laura arditamente. Così dicendo, afferrò la maniglia e in quello stesso istante Ben Woodworth spalancò la porta dall'interno dicendo «Buonasera!». Laura ne fu così sorpresa che non riuscì neppure a rispondere al saluto. Ben indossava il vestito della domenica col colletto rigido, bianco, aveva i capelli umidi, ben pettinati all'indietro e disse «La mamma è di sopra». Attraversarono con lui la sala d'aspetto e salirono le scale. La signora Woodworth, che le aspettava in cima, in un piccolo ingresso. Era piccola come Laura, ma più paffuta e rotonda. Si era messa tutta in gingheri, con un delicato abito grigio, bordato di pizzo bianco al collo e ai polsi, ma le accolse con tanta cordialità che Laura si sentì subito rassicurata. Le accompagnò a togliersi il cappotto in camera da letto. Anche la stanza sembrava in gingheri, tanto era graziosa e perfetta, e loro due ebbero un attimo di esitazione prima di posare le cose sul bel copriletto candido e i cuscini con la federa tutta a balze. Leggere tende di mussola, anche quelle a balze, erano drappeggiate davanti alle finestre e sul comodino, sotto la lampada, c'era un centrino di pizzo. Una striscia di pizzo della stessa fattura stava anche sopra il cassettone e un festone, anche quello di pizzo, pendeva dalla cornice dello specchio. Laura e Mary Power si dettero un'occhiata allo specchio, aggiustandosi la frangia che sotto il cappuccio si era un po' schiacciata. Poi la signora Woodworth disse allegramente: «Se avete finito di farvi belle, venite di là in soggiorno». Aida, Minnie, Arthur e Cap erano già arrivati. La signora Woodworth disse sorridendo: «Appena Jim sale, ora che finisce il lavoro, ci siamo tutti». Sedette e cominciò a chiacchierare garbatamente. La stanza, illuminata dalla luce soffusa della lampada, era calda e accogliente. Alle finestre c'erano tende di stoffa color rosso scuro e le sedie non erano disposte lungo le pareti, ma stavano tutte attorno alla stufa, dove le braci rosseggiavano dietro lo sportello di mica. Sul tavolino, col piano di marmo, c'erano un lussuoso album per fotografie e diversi volumi, che Laura avrebbe sfogliato volentieri, ma le pareva che fosse scortese non stare ad ascoltare quello che raccontava la mamma di Ben. Qualche minuto dopo, la signora si scusò e andò in cucina. Restarono tutti in silenzio. Laura avrebbe voluto dire qualcosa, ma non le venne in mente niente. Le sembrava di avere i piedi troppo grandi e non sapeva dove mettere le mani. Nella stanza accanto, di là dalla porta aperta, si vedeva una lunga tavola apparecchiata con una tovaglia candida e piatti e posate che scintillavano sotto la lampada appesa al soffitto con una catena dorata. Dall'orlo del paralume di porcellana scendevano luccicanti pendagli di vetro. Era tutto così bello, ma Laura non riusciva a liberarsi dalla sensazione di disagio. Cercò di nascondere i piedi sotto la gonna, guardava le altre ragazze e anche loro non sapevano che cosa dire. Si rendeva conto che qualcuno avrebbe dovuto rompere il silenzio, ma sapeva anche che non sarebbe stata lei. Alla fin fine, pensava, una festa di compleanno non era molto meglio di una serata dell'associazione di carità. Si udirono dei passi di corsa per le scale e Jim piombò nella stanza. Si guardò attorno, si fece tutto serio e chiese: «Scusate, è qui la riunione dei quaccheri?». Tutti scoppiarono a ridere. Rotto il ghiaccio, riuscirono a chiacchierare un po', anche se dall'altra stanza, dove la signora Woodworth continuava ad affaccendarsi intorno alla tavola, veniva un tintinnio di porcellane. Jim, che non mostrava il minimo imbarazzo, gridò: «È pronto, mamma?». «Sì», disse la signora Woodworth dalla porta, «volete accomodarvi in sala da pranzo?». A quanto pareva, i Woodworth usavano quella stanza solo per mangiare. La tavola era apparecchiata per 8. A ogni posto c'era un piatto con sopra una scodella fumante di minestra di ostriche. Ben andò a sedersi al suo posto, a capotavola, e all'altra estremità sedette Jim. La signora Woodworth distribuì gli altri posti e disse che lei avrebbe servito in tavola. Ora che aveva i piedi sotto il tavolo e sapeva cosa fare delle mani e tutto era così bello e allegro, Laura dimenticò la timidezza. Al centro del tavolo c'era un piatto d'argento che ruotava, con sopra aceto, senape e salsa di pepe in bottigliette di cristallo sfaccettato. C'erano anche una saliera e una pepaiola. I piatti erano di porcellana bianca con una ghirlanda di minuscoli fiori colorati sul bordo. Accanto a ogni piatto c'era un tovagliolo bianco piegato in modo da formare una specie di fiore. Ma la cosa più stupefacente di tutte era l'arancia davanti a ogni piatto. Un'arancia con la buccia tagliata a spicchi e piegata in fuori come la corolla di un fiore. Nel mezzo del fiore stava la palla succosa del frutto nella sua sottile pellicola bianca. Sarebbe bastata la minestra di ostriche da sola a rendere speciale la giornata. Con la minestra c'erano delle minuscole gallette rotonde. Quando ebbero finito anche l'ultima goccia di quella leccornia, la signora Woodworth portò via i piatti e mise in tavola un vassoio di crocchette di patate dorate e fragranti. Portò anche un vassoio di cremose e croccanti polpettine di merluzzo e un piatto di gallette appena sfornate. Poi fece girare il burro nella sua burriera di vetro. Furono invitati a sedersi e a servirsi generosamente, non una ma due volte. Poi la signora portò tè e caffè e fece girare lo zucchero e la panna. Quando ebbero finito, tolse tutti i piatti e portò in tavola la torta di compleanno coperta di glassa bianca. Posò una pila di piattini accanto a Ben e lui si alzò in piedi per tagliare la torta e distribuirla nei piatti. Aspettarono tutti finché Ben ebbe anche lui la sua porzione davanti. Laura continuava a guardare l'arancia. Se era lì per essere mangiata, quando e come poteva farlo? Era così graziosa, preparata in quel modo, che sembrava un peccato distruggerla, però le faceva gola. Le era già capitato una volta di assaggiarne una e ne ricordava ancora il gusto meraviglioso. Avevano cominciato tutti a mangiare la torta, ma nessuno aveva toccato le arance. Magari non è da mangiare, pensava Laura, magari è da portare a casa. Allora avrebbe potuto dividerla con papà e mamma, Carrie e Grace. Poi videro che Ben aveva preso in mano la sua. Finì di sbucciarla, tirando via i petali a uno, la divise in spicchi e cominciò ad alternare uno spicchio d'arancia e un boccone di torta. Allora anche Laura prese la sua e tutti la imitarono. Ognuno sbucciò la sua arancia, la divise in spicchi e la mangiò con la torta. Quando ebbero finito, sui piatti restarono solo gli spicchi di buccia. Laura si ricordò di pulirsi educatamente la bocca col tovagliolo e di lasciarlo piegato accanto al piatto, e così fecero anche le altre ragazze. Andiamo di sotto che c'è spazio per giocare, disse Ben. Alzandosi da tavola, Laura sussurrò a Mary Power: Non dovremmo dare una mano a lavare i piatti? Fu Aida a chiederlo a voce alta: Le diamo una mano coi piatti, signora Woodworth? Ma la signora disse: Non preoccupatevi dei piatti, ragazze, andate di sotto a divertirvi. Di sotto, nella sala d'aspetto, le lampade a muro erano tutte accese, anche la stufa era accesa e mandava un bel calduccio. C'era tutto lo spazio che potevano desiderare. Giocarono a rubafazzoletto e a mosca cieca e quando alla fine caddero tutti ansanti e accaldati a sedere sulle panche, disse Jim: So un gioco che nessuno di voi conosce. Naturalmente vollero tutti sapere di che si trattava. Non credo abbia un nome, è un gioco nuovissimo, disse Jim, ma se venite di là nel mio ufficio ve lo faccio vedere. L'ufficio era così piccolo che c'era appena lo spazio a contenerli tutti. Jim li fece disporre a semicerchio intorno al suo tavolo, con Ben a un capo e lui all'altro. Ora prendetevi per mano, disse. Per qualche istante restarono lì, senza sapere che fare. Poi di colpo Laura sentì una specie di scossa rovente attraversarla da capo a piedi. Le mani sussultarono, le ragazze lanciarono uno strillo, i maschi gridarono. Laura si era un po' spaventata, ma non disse nulla e non si mosse. Gli altri cominciarono a parlare tutti insieme. Che cos'è stato? Cos'era? Che cosa hai fatto, Jim? Come hai fatto? Cap Garland disse: Era l'elettricità, vero? Ma come hai fatto? Jim si limitò a ridere. Tu non hai sentito niente, Laura? Chiese. Certo che ho sentito. E allora perché non hai gridato? Beh, a che cosa serviva? Disse Laura e Jim non seppe che cosa rispondere. Ma che cos'era? Chiese anche lei. Jim rispose solo: Non si sa, non lo sa nessuno. Anche papà aveva detto che nessuno sapeva cosa fosse l'elettricità. Benjamin Franklin aveva scoperto che è il fulmine, ma nessuno sapeva che cos'era esattamente il fulmine. Quella cosa ora faceva funzionare il telegrafo elettrico, ma nessuno sapeva lo stesso cos'era. Si sentivano tutti un po' strani mentre stavano lì a guardare la macchinetta di ottone sul tavolo che mandava messaggi, tanto in fretta e tanto lontano. Jim dette un colpetto al tasto. Questo lo sentono a St. Paul in Minnesota. In questo momento? Chiese Minnie. Sì, proprio ora, disse Jim. Erano tutti lì, muti, a guardare quando entrò papà. È finita la festa? Sono venuto a prendere la mia ragazza. L'orologio stava battendo le 10. Non si erano accorti che fosse così tardi. Mentre i ragazzi si mettevano giacche e cappotti che avevano lasciato appesi di sotto nella sala d'aspetto, le ragazze salirono a prendere le loro cose di sopra e a salutare la signora Woodworth. Andarono nella camera da letto a vestirsi dicendo quanto si erano divertite e com'era stato bello. Ora che la festa tanto temuta era finita, Laura avrebbe voluto che durasse di più. Di sotto era arrivato anche il reverendo Brown a prendere Aida. Laura e Mary Power tornarono a casa con papà. Mamma era rimasta alzata ad aspettarle. Vedo che ti sei divertita da come ti brillano gli occhi, disse sorridendo. Fai piano ora perché Carrie e Grace dormono già. Domani ci racconterai tutto. Pensa, ma ognuno di noi ha avuto un'arancia intera, tutta per sé, disse Laura. Il resto lo avrebbe raccontato l'indomani, ma quella era una cosa così straordinaria che non era riuscita a trattenersi. Giorni pazzi. Dopo la festa, a Laura passò la voglia di studiare. La festa aveva creato un'atmosfera di allegria e amicizia tra i ragazzi e le ragazze più grandi della scuola, che ora durante l'intervallo e a volte anche nella pausa di mezzogiorno, se il tempo era brutto, si stringevano tutti a chiacchierare e a scherzare attorno alla stufa. Ma molto più divertenti erano le giornate di sole, tra una nevicata e l'altra. Allora uscivano a giocare a palle di neve. Era una cosa un po' da maschiacci, ma quanto si divertivano. Rientravano ansanti, ridendo, scuotendosi la neve dalle scarpe e dalle giacche, e tornavano al loro posto nei banchi, accaldati e felici, pieni di vita e di aria fresca. Laura si divertiva tanto che quasi non badava più a cogliere ogni occasione buona per studiare. Era ancora la migliore della classe, ma non prendeva più tutti i 100. Faceva errori in aritmetica e a volte perfino in storia. Una volta prese 93 in aritmetica. Ma non se ne preoccupava molto. Avrebbe recuperato il tempo perduto durante l'estate. Eppure anche lei conosceva il motto che dice perduta tra l'alba e il tramonto un'ora d'oro con 60 minuti di diamante. Essendo persa per sempre, non c'è ricompensa. I bambini più piccoli portavano a scuola gli slittini che avevano avuto in regalo a Natale. A volte i ragazzi grandi li prendevano in prestito e portavano in slitta alle ragazze, poiché non c'erano discese nella prateria e quell'anno non c'erano state bufere tali da accumulare grandi mucchi di neve contro le case, come era successo l'inverno precedente, i ragazzi tiravano gli slittini correndo come matti. Un giorno Cap e Ben costruirono una slitta abbastanza grande perché ci si potessero sedere tutte e quattro le ragazze. I quattro maschi la tiravano. Durante l'intervallo fecero a gran velocità un bel pezzo della strada che correva nella prateria. A mezzogiorno ebbero tempo per spingersi ancora più lontano. Alla fine, Nellie Olson non ne poté più di restarsene da sola accanto alla finestra a guardare gli altri che si divertivano. Aveva sempre disdegnato di uscire al freddo per timore di rovinarsi l'incarnato e di sciuparsi le mani, ma un giorno dichiarò che una corsa in slitta la poteva fare anche lei. In cinque sulla slitta non ci si stava, ma i ragazzi non ne vollero sapere di lasciarne una a piedi e alla fine le convinsero a salire tutte e cinque. Le ragazze dovettero tenere i piedi penzoloni e le gonne tirate su, tanto che si vedevano spuntare le calze di lana sopra il bordo delle scarpe e via partirono di corsa sulla strada innevata. Che risate, coi capelli al vento e le guance arrossate dal freddo e dall'eccitazione. I ragazzi fecero un grande giro nella prateria, poi tornarono indietro, passarono davanti alla scuola e, sempre tirandosi dietro la slitta, si diressero verso il paese. Facciamo Main Street! Gridò Cap Garland. Ridendo e urlando, gli altri acconsentirono subito e raddoppiarono il passo. Fermatevi, fermatevi subito! Cominciò a strillare Nellie. Oh, ragazzi, no, in Main Street no, gridò Aida, senza riuscire a smettere di ridere. Anche Laura rideva, perché la scena era buffissima, con loro cinque che strillavano e scalciavano, gonne, capelli e sciarpe al vento. Gli strilli di Nelly non fecero che raddoppiare l'allegria dei ragazzi, che si misero a correre ancora più forte. Si fermeranno di sicuro prima di arrivare in Main Street, pensava Laura. Ora tornano indietro. No, no, Arthur, no, gridava Minnie e Mary Power supplicava, per piacere, fermatevi. Alzando gli occhi, Laura vide i due Morgan fermi sulla strada con le loro coperte sulla groppa. Almanzo Wilder, con un gran cappotto di pelliccia addosso, li stava slegando dal palo. Si voltò a guardare cos'erano tutti quegli strilli e in quel momento Laura capì che i ragazzi avevano davvero intenzione di far passare la slitta in Main Street sotto i suoi occhi, sotto gli occhi di Almanzo Wilder. No, così non andava, non era più divertente. Le altre ragazze facevano un clamore tale che Laura dovette parlare a bassa voce per farsi sentire. Cap, ti prego, falli fermare. Mary non vuole passare in Main Street. Cap cominciò subito a girare per tornare indietro. Gli altri cercavano di tirare dritto, ma lui disse: Dai, piantatela! E fece girare la slitta. Ora tornavano finalmente verso la scuola. La campanella stava suonando. Davanti alla porta saltarono giù, divertite e di buon umore. Solo Nelly era furibonda. Vi credete tanto furbi, voi maschi? Era davvero arrabbiata. Voi non siete altro che coloni ignoranti. I ragazzi la guardarono, muti e con la faccia scura. Non potevano dire che cosa pensavano perché lei era una ragazza. Poi Cap si voltò a guardare Mary Power con aria spaventata e Mary gli sorrise. Grazie per la corsa, ragazzi, disse Laura. Grazie, sì, che spasso, aggiunse Aida. Grazie, disse Mary sorridendo a Cap e lui si illuminò tutto. Lo facciamo di nuovo nell'intervallo, disse, e tutti entrarono in classe. In marzo la neve cominciò a sciogliersi, si avvicinavano gli esami, ma Laura non studiava come avrebbe dovuto. Non si parlava d'altro che dell'ultima serata del circolo letterario. Di che cosa si trattasse era un segreto che tutti cercavano di indovinare. Sarebbe venuta dalla campagna perfino la famiglia di Nelly e Nelly avrebbe messo un vestito nuovo. A casa, invece di studiare, Laura passò la spugna sul vestito di cashmere, lo stirò, dette una rinfrescata al merletto. Desiderava tanto un cappello da mettere con quel vestito, invece del solito cappuccio dell'inverno, che mamma le comprò uno scampolo di bel velluto marrone. So che lo terrai da conto, disse, quasi per giustificarsi, e che lo farai durare per qualche anno. Così, quel sabato, Laura e Mary Power si confezionarono ognuna il proprio cappello. Quello di Mary era di tessuto turchino, rifinito con un cordoncino di velluto nero e azzurro. Erano cose che aveva trovato nel sacco degli avanzi di suo padre. Quello di Laura era di quel bel velluto serico al tatto e lucente. Lo indossò per la prima volta quella sera. A scuola non erano stati fatti preparativi particolari per la serata, solo la cattedra era stata tolta dalla predella e spostata contro una parete. Ogni posto a sedere era occupato da tre persone e la gente in piedi era così tanta che quelli rimasti fuori non riuscivano a entrare. Un gruppo di ragazzini si era ammassato sulla cattedra. Il signor Bradley e l'avvocato Barnes si affannavano a tener libero il corridoio principale tra i banchi. Non si capiva perché e tutti cominciavano a guardarsi intorno con aria interrogativa. Quando un urlo si levò dalla folla che era rimasta fuori. Un attimo dopo, lungo il corridoio centrale, si videro venire marciando cinque figuri con la faccia nera come il carbone, vestiti di stracci, con grandi cerchi bianchi attorno agli occhi e la bocca enorme tinta di rosso. Salirono sulla predella, poi, voltandosi tutti insieme verso il pubblico, fecero un passo avanti cantando: I Mulligan Guards non sono nessuno. Guardate un po' i neri qua. Un passo avanti, un passo indietro, tutta la fila si muoveva a passo di marcia, avanti, indietro, avanti, indietro. I Mulligan Guards non sono nessuno. Guardate un po' i neri qua. A tempo marciamo, insieme cantiamo, guardate i neri, oplalà. Il nero al centro venne avanti, ballando una giga. Batteva il tempo coi piedi, velocissimo. Gli altri quattro erano rimasti un passo indietro. Uno suonava lo scacciapensieri, un altro l'armonica a bocca. Il terzo teneva il tempo picchiando insieme due ossa cave e il quarto battendo mani e piedi. Il pubblico cominciò ad applaudire e a gridare per incitarli, poi si mise anche a battere i piedi. Nessuno riusciva a star fermo, trascinato dal ritmo incalzante della musica e della danza forsennata di quei cinque buffi neri con gli occhi bianchi. Finito il numero della danza, cominciò una sfilza interminabile di frizzi e lazzi, battute, scherzi, ci furono risate a non finire. Poi di nuovo musica e danza forsennata e di nuovo numeri comici. Quando i cinque all'improvviso imboccarono di corsa il corridoio tra i banchi e filarono via, la gente non ne poteva più da ridere. Sembrava impossibile che fosse già passata tutta la sera. Il famoso spettacolo di varietà newyorkese dei Mulligan Guards non poteva certo essere meglio di quello cui avevano appena assistito. Poi una domanda serpeggiò tra la folla. Ma chi erano? Così camuffati, con la faccia tinta di nero e gli occhi cerchiati di bianco, nessuno li aveva riconosciuti. Laura, però, era sicura che il ballerino fosse Gerald Fuller, perché una volta lo aveva visto ballare la giga sul marciapiede davanti alla sua bottega. E ripensando alle mani nere che tenevano tra le dita le due lunghe ossa piatte, battendole a ritmo di musica, avrebbe scommesso che quel nero fosse papà, se avesse avuto le basette. «Papà non si sarà tagliato le basette?» chiese. «Santo cielo, no!» esclamò mamma orripilata. Poi aggiunse: «Speriamo di no!» «Uno di quei neri doveva essere papà per forza», disse Carrie, «dato che non era con noi». «In effetti so che andava alle prove dello spettacolo», disse mamma, accelerando il passo. «Sì, ma nessuno di quelli aveva le basette», disse Carrie. «Oh cielo!» continuava a dire mamma. «Oh signore!» Si era lasciata talmente prendere dallo spettacolo che non aveva più pensato a nient'altro. «No, non avrebbe mai fatto una cosa del genere», disse poi. E chiese a Laura: «Non credi?» «Non so», rispose lei. Ma pensava che per una serata così papà sarebbe stato capace perfino di tagliarsi le basette. Corsero a casa. Papà non c'era. Ci volle un bel po' prima che comparisse tutto allegro dicendo: «Allora, vi è piaciuto lo spettacolo?» Le lunghe basette castane erano al loro posto, intatte. «Ma cosa hai fatto alle basette?» gridò Laura. Papà si finse stupito. «Perché? Cosa hanno che non va?» «Charles, mi farai morire», disse mamma ridendo. Ma guardando con attenzione, Laura vide una minuscola macchiolina bianca tra le rughe che si formavano all'angolo dell'occhio quando papà rideva e scoprì un filino di lucido da scarpe nero sulle basette. «Ho capito! Le hai tinte, le hai appiattite e nascoste dietro quel gran colletto rialzato!» esclamò. Papà non poté negare. Era lui, il nero delle ossa. «Una serata così capitava una volta nella vita», disse mamma. Stettero ancora lì a parlarne per un pezzo. Era l'ultima serata del circolo letterario perché l'inverno era agli sgoccioli. «Ci trasferiremo alla fattoria appena finisce la scuola», disse papà. «Siete contente?» «Dovrò guardare in che stato sono le mie sementi», disse mamma con aria pensierosa. «Che bello!» esclamò Carrie. «Andremo a raccogliere le viole con Grace. Grace? Sei contenta?» Ma Grace si era quasi addormentata in grembo a mamma sulla sedia a dondolo e aprì un occhio e disse: «Violette!» «E tu, Laura?» chiese papà. «Mi sa che ormai quasi quasi preferiresti restare in paese, eh?» «Forse sì», ammise Laura. «Abitare qui mi piace più di quanto avrei mai immaginato. Ma non ci sarà più nessuno d'estate. Hanno tutti una concessione da qualche parte e vanno a stare là. E poi l'inverno prossimo torneremo in paese, no?» «Eh sì, penso proprio di sì», disse papà. «Tanto vale, visto che non riesco ad affittare questo magazzino, e quando c'è scuola per voi ragazze è meglio così. Anche se quest'inverno, col tempo mite che ha fatto, saremmo potuti restare in campagna. Sempre così. Ti prepari per affrontare il duro inverno e non si degnano di mandarti nemmeno una bufera». Lo disse in modo così buffo che scoppiarono tutte a ridere. Da quel momento ebbero da pensare al trasloco. E in quelle giornate, con l'aria che cominciava a farsi tiepida e profumava di terra umida, Laura aveva sempre meno voglia di studiare. Sapeva che avrebbe passato gli esami comunque, anche se magari non con il massimo dei voti. Quel Quando le rimordeva la coscienza, pensava abbacchiata che per tutta l'estate non avrebbe più visto le sue amiche e i compagni e si riprometteva di mettersi a studiare sul serio in quei mesi. Agli esami non prese il massimo in nessuna materia. In storia ebbe 99, in aritmetica solo 92. Erano i suoi voti e ormai non poteva più fare nulla per migliorarli. Quel giorno, all'improvviso, si rese conto che non poteva più indulgere alla pigrizia. Le restavano 10 mesi prima di compiere 16 anni. L'aspettava l'estate, cieli azzurri e grandi cumuli bianchi portati dal vento, viole fiorite nella conca dei bufali e rose selvatiche tra le erbe della prateria. Ma lei doveva chiudersi in casa a studiare, non aveva scelta, perché se non fosse riuscita a prendere il diploma da maestra la primavera successiva, Mary avrebbe dovuto abbandonare l'università.